Cinquegna, ma va di ci va va. Cinquegna, Cinquegna, ma Cinquegna, ma va di ci va va. Cinquegna, va va. Hai va va. I'm